Die braunen Pupillen, die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann dein Feind sein, es kann dein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue. Sono le ore 19 e 12 minuti di martedì 8 agosto 2006 e mi trovo all'Enoteca Ristorante Wine Bar Gusto di Piazza Augusto Imperatore a Roma, che è un locale noto soprattutto per questi grandi brunch luculliani della domenica mattina. È una bellissima serata, non fa troppo caldo, anzi direi che c'è un'aria piacevole, frizzante, città tutt'altro che deserta, però c'è il vantaggio che la chiusura di parecchi uffici ha tolto di mezzo grisaglie, giacche, cravatte, con notevole beneficio per l'ambiente. Per questa terza puntata di Due Occhi da Straniero sono in compagnia di Christa Peduto Langen, corrispondente in Italia della Westdeutsche Allgemeine Zeitung, che è uno dei quotidiani più letti in Germania e uno dei giornali tedeschi più attenti alle cose italiane. Christa, era il 1977 quando ci fu questa celebre copertina dello Spiegel che raffigurava una pistola su un piatto di spaghetti. E quasi 30 anni dopo, lo stesso giornale, anche se in una rubrica satirica, parla di italiani parassiti, costringendo alla fine il direttore del settimanale a scusarsi con l'Italia. Quanto ha esagerato lo Spiegel questa volta con le parole e quanto abbiamo esagerato noi italiani a offenderci? Innanzitutto già negli anni 70 lo Spiegel sicuramente aveva esagerato con questo titolo. Poi oggi, diciamo, io direi non è da prendere così tanto sul serio, perché intanto ci trovavamo nel campionato mondiale del calcio e c'era una vera rivalità fra sportivi che si trasmetteva in tribuna e platea, diciamo. E quindi non è da prendere così sul serio, perché anche i tedeschi, appena che avevano capito che non diventavano più campione del mondo, tifavano soprattutto per gli italiani e subito dopo andavano a festeggiare con la pizza come sempre. Ecco, ma secondo te com'è cambiata in questi ultimi 30 anni la percezione dell'Italia e degli italiani presso il popolo tedesco? La percezione degli italiani presso il popolo tedesco è cambiato veramente molto. Mentre prima Italia era un po' considerato di secondo rango, diciamo, poi con il Made in Italy, che vuol dire in questo caso sia la moda, sia il mangiare, sia il vino, il bere, cioè lifestyle in generale, ha cominciato un'adorazione di Italia e del modo di vivere degli italiani. Ecco, però personalmente, quali sono i comportamenti degli italiani che ti infastidiscono, che ti danno più fastidio? Mi danno fastidio due cose. Uno, questi di una certa società che fanno tanto lo snob, e spesso, come so, da avvenimenti dove erano presenti, diciamo, non era proprio il caso di fare tanto lo snob. Quindi è una critica più rivolta a una certa classe di reddito, più che classe sociale, sì, più che al complesso degli italiani. Però mi dà anche fastidio l'italiano medio che che cerca fare il prepotente, tipo fatto in tanti film di Alberto Sordi, che penso che a tutti dà un po' di fastidio questo tipo di italiano che esiste davvero. Ecco, ma credi che quei film abbiano alla fine generato un meccanismo di compiacimento degli italiani che si riconoscevano nel personaggio, oppure era a suo modo una denuncia dell'italiano medio? Cioè c'era un po' di quasi di solidarietà verso quel tipo di italiano da parte di chi faceva questi film, oppure era un tentativo di denunciare, magari di cambiare gli italiani, e gli italiani non l'hanno capito? Ma non so se gli italiani non l'hanno capito, ma penso che sicuramente è stato quasi un tentativo di educazione, di lasciare da parte certi comportamenti. Ecco, passiamo alla politica. La grosse coalizione è diventato un termine di uso comune anche nel nostro dibattito politico. Però, secondo te, è possibile realizzarla davvero anche in Italia? E se sì, perché? Se no, perché? Non credo che sarà da realizzare in Italia, però voglio prima di tutto dire un'altra cosa, che l'ammirazione per la grossa coalizione in Germania, come la vedo qua in Italia, è francamente esagerata, perché la grande coalizione in Germania è piena di problemi. Veramente. In sostanza, ognuno dei partiti in questa grande coalizione pensa a se stesso come fare la migliore figura in vista delle prossime elezioni. E una cosa che non riesce sempre, il risultato non è così grande come uno pensa. Per esempio, ultimamente hanno preso delle decisioni nel campo sanità che sono da criticare in tutti i modi e che hanno anche tutti criticati. Ecco, dopo la sconfitta elettorale, Schröder è andato a vendere praticamente il gas russo, è diventato ancora più ricco di prima, forse ancora più personaggio di prima. Berlusconi invece, pur avendo ormai praticamente 70 anni, continua questa battaglia politica. Perché? Berlusconi dice, cioè, soprattutto Berlusconi non ha torto quando dice che se il centrodestra ha avuto una buona percentuale è stato soprattutto merito suo, quello senz'altro. E quindi lui dice non può da un giorno all'altro abbandonare i suoi elettori. Qualcosa di vero c'è. Comunque bisogna vedere se lui riesce di tenere insieme questo centrodestra, che per esempio in questo momento non sembra molto probabile. Quindi quando ognuno poi va, o gran parte del centrodestra prende un'altra strada, anche un Berlusconi non serve più tanto, e penso quando lui vede chiaramente di perdere, di stare sul lato di perdere, andrà a abbandonare. Soltanto il problema suo, come lui si è presentato sempre da un tipo vincente, sarà molto difficile per lui di riconoscere davanti a se stesso di stare per perdere. Ecco, con il ritorno di Prodi a Palazzo Chigi si è parlato di un nuovo asse Italia-Germania per rilanciare il ruolo dell'Europa in un momento in cui le istituzioni europee sembrano attraversare una crisi molto profonda. Secondo te quanto è grave questa crisi e cosa possono fare Italia e Germania per rimettere l'Europa sui binari di una maggiore integrazione anche politica? Importante sarebbe di tornare alla Costituzione europea, ma questo non è un grande problema di Italia e Germania, ma un problema dei francesi e altre nazioni. Quindi finché in Francia, per esempio, non è cambiato il tipo di politica e prima dell'anno prossimo non ci sarà, si può soltanto cominciare di sondare e preparare il terreno di cambiare in in stile positivo, nel senso che Europa sarà più unita e avrà un ruolo insieme sulla scena globale, che oggi senz'altro è necessario al massimo. Ecco, parliamo degli italiani che risiedono in Italia, che sono 700.000, siamo la comunità straniera più numerosa dopo i turchi. Di questi 700.000 però, diciamo, oltre l'80% vive in Germania da più di 10 anni, il 22% purtroppo è disoccupato e periodicamente molti italiani sono espulsi per reati che vanno dalle rapine allo spaccio di stupefacenti. C'è però anche un risvolto positivo della nuova immigrazione italiana, diciamo, potremmo chiamarla un'immigrazione intellettuale, sono anche studenti, ricercatori, insomma è una realtà molto complessa. Secondo te a che punto è l'integrazione degli italiani in Germania in questo momento? Ma io direi l'integrazione degli italiani in Germania è veramente grande, è sicuramente la comunità straniera più integrata di tutti. Io conosco tanti italiani in Germania che sono già figli in seconda o terza generazione, che non hanno la minima idea di trasferirsi, non hanno più il sogno di tornare un giorno in Italia, costruirsi una casetta nel paese loro. Poi non penso che la percentuale di criminalità fra gli italiani non è grande. E i disoccupati italiani non saranno molto di più dei disoccupati tedeschi, che purtroppo abbiamo questa grande disoccupazione in Germania, che in certe zone è più alta e in altre zone più basse per diversi motivi. E che vuol dire poi? Un disoccupato in Germania prende per anni tanti sussidi, che qua in Italia mi sembra non è così. Ecco, proviamo a confrontare Italia e Germania sotto il profilo della cultura, della fruizione della cultura. I dati sembrano però sconfortanti per l'Italia, perché... Allora, in Germania ogni Land ha un'orchestra della radio pubblica, da noi la RAI è rimasta con una sola grande orchestra. In Germania esistono svariate radio, televisioni pubbliche interamente dedicate alla cultura, c'è cioè Dreisat, c'è Arte, poi ci sono addirittura ogni Land, cioè in Baviera, se non sbaglio, c'è una radio solo culturale. Cioè, da noi esiste solo una TV culturale, si chiama Kalt ed è a pagamento. In Germania la cultura sembra essere parte della vita quotidiana, da noi è legata ai grandi eventi, in questo Roma fa un po' scuola. Vorrei chiederti, ma come nasce questo approccio diverso del cittadino tedesco e del cittadino italiano verso la fruizione della cultura? In Germania forse potrebbe essere un problema di clima. In un paese dove è più freddo e dove bisogna passare tante serate triste invernale che è lungo e bisogna pensarci che cosa fare, allora uno comincia per forza a interessarsi più di cultura. Però anche in Germania esistono gli grandi eventi che però anche per forza, anche forse per il clima, non possono esserci come qua, perché in una grande sala, in una hall, entra una certa quantità di gente, fuori in piazza molto di più. Quindi quando fuori sono 10 gradi meno zero, nessuno ha voglia di stare per qualche pop star, rock star o chissà chi fuori all'aperto. Certo. Allora, io ti ho anticipato che volevo chiudere con una piccola provocazione. Vorrei mostrarti uno spot televisivo di un'azienda di liquori italiana, o meglio sarda, la Zedda Piras di Alghero. Vediamolo insieme. Som Rasmus Træs begyndte at fabrikere allerede i... Il mirto Zeta Piras non ha più confini. Ecco, lo spot, lo dico a beneficio degli ascoltatori, mostra una signora che è tedesca, si capisce che è tedesca perché scatta una radio che parla tedesco nei primi secondi, che nel dormiveglia è vittima di una specie di sogno ad occhi aperti. C'è un ragazzo, presumibilmente sardo, che su una scogliera, presumibilmente sarda, stappa una bottiglia di questo liquore, di questo mirto. E intanto nella vita reale il marito, tedesco, che è sdraiato intorno a lei, ascolta alla radio quelli che potrebbero essere i dati della borsa di Francoforte. Però l'allucinazione ha risvegliato la passione della signora tedesca, che afferra il marito, quello vero, e inizia un rapporto sessuale, sorprendendo completamente il coniuge. E lo spot si chiude con la delusione della signora, che si rende conto di essere a letto non con il ragazzo sardo, forse conosciuto in vacanza, ma con il marito tedesco. Ora, abbiamo parlato prima dei pregiudizi dei tedeschi verso gli italiani, però qui mi sembra che ci sia davvero il quadro completo dei luoghi comuni che gli italiani hanno verso i tedeschi. Secondo lei, perché il marketing di questa società dei liquori ha scelto proprio una coppia tedesca per ambientare questo spot? Bisognerebbe soprattutto sapere a chi è indirizzato questa pubblicità. Io l'ho vista solo in Italia, vedo molte televisioni tedesche, non l'ho mai vista in Germania. Ma penso che una cosa è senz'altro vero, che da in Germania fra le donne tedesche esiste ancora il mito dell'italiano come macho, come avventurista, anche se loro sanno bene che conoscendo tanti viaggi in Italia, che la verità e la realtà oggi è diverso. Il macho è diventato piuttosto raro, direi, in Italia. Semmai c'è il mammone italiano al posto del macho. Sì. Invece penso che anche l'italiano, forse non quello tanto giovane, ma di media età, uno appunto che beve forse queste cose, anche lui ha il sogno di poter essere ancora un macho e di conquistare una ragazza straniera in vacanza. Un vecchio mito che resiste. Grazie, grazie. Die braune Pupille, die Lieder, was war das? Tutte le interviste di Due Occhi da Straniero sono pubblicate con licenza Creative Commons e sono scaricabili dal sito dueocchidastraniero.wordpress.com. La musica della sigla, per gentile concessione dell'etichetta Bella Musica Edition, è Zwei Fremde Augen, cantata da Salome Kamme e tratta dal film Heimat 2, Cronaca di una giovinezza di Edgar Reitz. Per i vostri commenti e suggerimenti potete scrivere a antoniocontent@yahoo.it. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lieder. Was war das von der großen Menschheit ein Stück vorbei verweht nie wieder.